Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenuta a Mebius, ciao Chiara. Ciao Federico, ecco, buonasera a tutti, ci siamo. Incominciamo con il rock. Incominciamo con il batterio di Frank Zappa, che poi è anche quello colpevole dell'acne e dei brufoli che noi conosciamo bene. E qui diranno tutti che siamo diventati pazzi. Invece, nella seconda parte, risponderemo a una vostra domanda sui binari delle ferrovie dipinti di bianco, ma sono venute fuori un sacco di altre robe. Incominciamo. Partiamo. I want a nasty little Jewish princess, la, la, la. With long bony nails and a hairdo that rinses. A horny little Jewish princess, with a garlic aroma that could level Tacoma. One time. Questo è Frank Zappa. È riconoscibilissima la sua voce. Questa è una canzone che forse non tutti il popolo passionato magari, nota, ecco, poco nota. Si chiama Jewish Princess. È una canzone che ha fatto anche discutere negli Stati Uniti, perché non è politicamente corretta, ha dentro un po' di affermazioni anche antisemite, già lo dice il titolo stesso. Lui, vabbè, è un personaggio un po' strano, bravo, ma principessa strano. Ebrea, ecco la traduzione del titolo. In realtà lo abbiamo scelto non tanto per entrare nel merito di quello che è stata la critica che è stata mossa a questa canzone, non ci interessa, ma volevamo appunto nominare Frank Zappa e questa canzone che contiene dentro un passaggio che parla di acne e di brufoli. Questo perché? Direi che prima presentiamo il nostro ospite e poi lo spieghiamo agli ascoltatori. Buonasera Omar Rota Stabelli. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Lei è già stato nostro ospite in altre occasioni, ma questa volta ci vuole raccontare una storia un po' particolare. Lo abbiamo soprannominato il batterio di Frank Zappa, e quindi ecco che ci giustifica la canzone che abbiamo appena ascoltato, perché andiamo a parlare anche di acne e di brufoli. Sì, abbiamo scoperto che il batterio responsabile per l'acne nell'uomo si è trasferito circa 6-7 mila anni fa dalla pelle umana all'interno delle piante di vite. Una cosa molto, per noi è stata una grande sorpresa. E questa è una cosa stranissima. Ecco, non abbiamo detto che lei è ricercatore alla Fondazione Edmund Ma, che è biologo evoluzionista, e questa cosa qui non l'aveva mai vista. No, ci sono esempi di trasferimento di ospite all'interno dei microrganismi, però un parassita umano che riesce a entrare e adattarsi in una pianta, no, non l'avevamo mai visto, e noi pensiamo che sia il primo caso. Però voi avete anche dedicato allora questo batterio a Frank Zappa. Sì, perché facendo analisi evolutive molecolari abbiamo capito che si tratta o di una specie diversa, perlomeno di uno strain molto diverso per vari tipi di caratteristiche, e quindi quando si scopre una specie, uno strain nuovo, gli si dà un nome, e abbiamo cercato questa volta di dargli un nome un po' interessante, diciamo. E come avete fatto? Cioè, nel senso, non è che vi sarà proprio venuto così spontaneo, avrete cercato, non so, quali erano gli altri papabili e poi perché avete scelto questo? È stato un po' il caso, perché in quel periodo Andrea Campisano, che è il microbiologo con cui lavoravo su questo, aveva sullo screensaver una fotografia di Frank Zappa. Tutto torna. Era un fan. È un fan, sì, anch'io sono fan. In quel periodo, tra l'altro, ascoltavo anche un The Best di Frank Zappa, per cui insomma aleggiava nell'aria Frank Zappa. Doveva andare così. Dovendo scegliere un nome, abbiamo pensato che Frank Zappa. Sì, ma Omar Rota Stabelli, quali erano gli altri nomi in lizza? Sì, avevamo pensato anche a Bukowski, perché Bukowski aveva l'acne, era proprio martoriato dall'acne, per cui poteva essere interessante. Avevamo pensato anche a Harry Potter, perché in un episodio di Harry Potter loro maneggiano la mandragola, viene riferito che la mandragola ha l'acne. E per cui insomma anche questi erano interessanti. Alla fine abbiamo scelto Frank Zappa. Basta, alla fine Frank Zappa, il rock è sempre vincente. Senta, però, com'è possibile che da un essere umano passi a un vegetale una malattia? Beh, allora si tratta di microrganismi, in questo caso un batterio, hanno una forte capacità di adattarsi a nuovi ambienti. In questo caso sulla pelle umana si ciba di acidi grassi, soprattutto deve aver trovato degli acidi grassi all'interno della vite. In effetti la vite è abbastanza ricca di acidi grassi, per cui utilizzando un tipo di cibo simile è riuscito a cambiare completamente ambiente. Non è frequente però questa cosa, cioè non è che noi vediamo cipressi con il morbillo o... No, era, io non so, ci sono altri casi famosi di passaggio uomo-pianta. Passaggi di patogeni di questo tipo, noi pensiamo sia il primo caso. Ci sono casi a volte di contaminazioni molto passeggere, per esempio è stato trovato nell'insalata coli, c'è stato un problema qualche anno fa dell'insalata spagnola, se non ricordo male, però si tratta di passaggi occasionali e temporanei. In questo caso invece il batterio si è adattato in modo permanente a vivere all'interno della vite. Non è una cosa frequente, perché voi stessi ricercatori eravate increduli all'inizio, le cose non vi tornavano. Sì, infatti noi eravamo molto scettici, pensavamo ci fosse un qualche tipo di contaminazione, per cui la pelle nostra, degli operatori, che fosse finita all'interno portandosi dietro qualche batterio. Però abbiamo fatto molte analisi accessorie. Avete messo il passamontagna? Ci siamo rasati, possibile. Ecco. Abbiamo anche scalpellato la vite, l'abbiamo trattata, abbiamo usato molti accorgimenti per escludere le possibilità di contaminazioni. Però la prova regina è arrivata dal DNA, perché abbiamo visto che il DNA del batterio che sta nella vite è diverso dal DNA che sta nella nostra pelle. Per cui ci sono state delle mutazioni che sono uniche del batterio che sta all'interno della vite. Non penso, che abbiamo sorprendente. Di tutte le viti? Noi abbiamo analizzato alcune viti del nord Italia, noi ipotizziamo però che sia presente in tutte le viti del mondo, perché usando sempre il DNA e facendo delle calibrazioni molecolari ipotizziamo che sia avvenuto queste mutazioni intorno a 6-7 mila anni fa, quindi in concomitanza con la domesticazione della vite. E siccome tutte le viti che si usano sono in genere clonali, dovrebbe esserci stato un solo evento di trasferimento proprio mentre quando l'uomo cominciava a coltivare la vite. Le viti però non presentano brufoli o punti neri, cioè che non risulti, no? No, per fortuna. E noi ipotizziamo, non danno nessun segno evidente, noi ipotizziamo che il batterio sia all'interno per proteggere da qualche altro parassita, molto probabilmente di tipo fungino. Infatti questo batterio produce acido propionico che ha un certo effetto infestante. Ecco. Noi pensiamo sia utile. E l'abbiamo solo noi e la vite? Per ora sì, è stato trovato in rarissimi casi in animali domestici, come nella ghiandola anale del porcellino d'India. Porcellino d'India. Probabilmente sono casi di trasferimento recentissimo anche lì dall'uomo, stando molto vicino all'uomo. Vedi che batterio particolare, che storia. Dal porcellino potrebbe arrivare qualcosa alla vite? Difficile. Avere dei salametti sarebbe splendido, invece che dei vigneti. Omar, questo passaggio uomo-vegetale è rarissimo, perché non avevamo gli strumenti per capire invece che sia più frequente? Cioè c'è qualcosa di nuovo nelle vostre tecnologie di indagine che magari potrà portare a scoprire molti di più di questi trasferimenti? Sì, l'analisi iniziale è stata permessa grazie alle nuove tecniche di sequenziamento, che riescono a sequenziare moltissimo di tutto il DNA presente all'interno della vite o di qualsiasi altra pianta. Per cui noi pensiamo che usando queste nuove tecniche sia possibile, possibile trovare nuovi esempi, se esistono realmente in natura. Va bene, grazie, grazie Omar Rotastabelli, buon lavoro a lei e ai suoi colleghi. Ok, grazie, ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il nostro ascoltatore Massimo Chiara ci ha mandato una domanda, di una cosa che noi, relativa a una cosa che noi abbiamo osservato molte volte. Soprattutto a Milano, mi viene da dire, adesso c'è ovunque, insomma, i binari delle ferrovie dipinti, non proprio il binario, ma tutto intorno dipinto di bianco. Esattamente così. Adesso proviamo, Massimo, a dare la parola a Massimo. E poi rispondi tu, con il tuo esperto. Salve, ho una domandina semplice, forse anche banale. Cioè la domanda è questa: perché i binari delle ferrovie vengono dipinti sui due lati con una pittura bianca? ho provato a dare tre risposte legittime, ma forse molto banali. Una, perché serve, questo bianco è un disinfettante per lo scarico dei gabinetti dei vari treni, oppure il bianco serve ad abbassare le temperature delle rotaie durante la stagione estiva, oppure è un abbellimento stile vintage come nei pneumatici degli anni 50. Queste erano un po' le mie opzioni. Grazie dell'attenzione. Per rispondere alla domanda di Massimo non potevamo far altro che rivolgerci ovviamente alle Ferrovie dello Stato e alla rete ferroviaria italiana. Quindi è qui con noi stasera Umberto Lebruto. Buonasera ingegnere. Buonasera a tutti voi. Lei è direttore della direzione di produzione proprio della rete ferroviaria italiana e approfittiamo insomma della sua preparazione per intanto rispondere a Massimo. Dunque, perché alcuni binari, perché non tutti dobbiamo dirlo, sono dipinti di bianco, con una pittura bianca, dice Massimo. Sì, sono contento che l'avete notato, è un modo di fare maggiore sicurezza nel nostro mondo. Negli anni abbiamo sperimentato e trovato una vernice altamente riflettente che, spruzzata sul fungo della rotaia, riesce a ridurre la temperatura nel ferro della rotaia, soprattutto quando ci sono le stagioni calde, i forti calori. Questo comporta un miglioramento della sicurezza e anche, come dire, l'adozione di minori azioni durante i periodi dei forti calori. Giusto per dare un qualche elemento tecnico, sì, in più. Anni fa, negli anni 70-80, per chi si ricorda quando si viaggiava in treno, ogni 36 metri si sentiva tutun tutun tutun tutun. E come no? Erano le giunzioni che esistevano tra un pezzo di rotaia e quello successivo. Nel tempo abbiamo eliminato queste giunzioni, abbiamo trasformato la rotaia da tanti pezzi uniti con delle giunzioni in un'unica rotaia senza soluzione di continuità. I nostri 16.700 chilometri di binari presenti in tutta la rete italiana sono rappresentati da un filo continuo di ferro senza soluzioni di continuità, e infatti oggi a bordo del treno, quando si viaggia, non si sente più quel rumore. Infatti possiamo immaginare che lavoro c'è stato dietro appunto in questi anni per, lo ripetiamo, 16.700 chilometri di binari. Le dico, ci abbiamo lavorato molto con la nostra struttura tecnica e negli anni abbiamo trovato davvero questo palliativo. Cosa significa il bianco sulla rotaia? La rotaia, abbiamo detto, è diventato un elemento continuo, è fatta di ferro, col caldo il ferro si allunga. È chiaro che se la temperatura della rotaia raggiunge certi gradi, in generale sono la prima soglia di attenzione è a 55 gradi di temperatura letta sulla rotaia, quando si supera questa soglia bisogna attivare delle azioni cautelative, bisogna mandare personale per fare vigilanza, bisogna rallentare i treni, a volte se la temperatura cresce, se il calore esterno è molto alto, bisogna anche a volte arrestare i treni. Perché il metallo della rotaia si dilata in qualche modo. Perché si dilata e quindi si muove, certo. La geometria del binario cambia con quella temperatura, quindi dobbiamo mantenere la temperatura sempre al di sotto dei 55 gradi. Abbiamo visto che normalmente con lo spruzzaggio di queste vernici, che sono vernici altamente riflettenti, si riesce a mantenere di 3, 4 e anche 5 gradi la temperatura più bassa di quella che si otterrebbe senza la vernice. Ed ecco che allora ci si allontana molto dalla soglia dei 55 gradi e quindi non siamo neanche, come dire, costretti a rallentare i treni. La sicurezza è garantita ed è garantita con questo ulteriore elemento tecnico. Per cui negli anni abbiamo migliorato le prestazioni, soprattutto nei periodi di luglio, che sono notoriamente quelli in Italia più caldi, dove la temperatura esterna a volte supera i 40, 42, certo, 43 gradi, e dentro la rotaia, dentro il ferro, potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 55 gradi. Ecco, è un po' il motivo per cui anche le case del nostro Mediterraneo siamo abituati a vederle bianche, case in Grecia e così via. Ecco. Il bianco lo si vede anche nelle stazioni, in maniera un po' più diffusa, non solo sulle rotaie, ma anche sulla massicciata, dentro gli interbinari tra un marciapiede e l'altro. E in effetti è un qualche cosa che ci portiamo nel tempo, nelle stazioni, soprattutto le stazioni dove non c'è possibilità di pioggia esterna, immaginate la stazione di Milano Centrale che ha una grossa tettoia che coperta, quindi non permette di piovere e quindi di pulire naturalmente la massicciata, oltre alle pulizie che facciamo appositamente negli interbinari, d'estate quando il calore cresce, per evitare che ci siano dei fenomeni anche legati ad igiene, spruzziamo calceviva, quindi la stazione di Milano Centrale è tutta tappezzata, oltre che la rotaia, anche sulla massicciata, di calceviva. La calceviva ha proprio l'effetto di pulire, igienizzare e rendere ancora più confortevole la stazione, e questo lo facciamo soprattutto nelle stazioni dove è più facile che ci siano fenomeni di accumulo di elementi organici, anche se nel tempo, devo dire, gli elementi organici derivanti dal treno si riducono notevolmente, drasticamente, perché ormai quasi tutti i treni avranno a breve i bagni chimici, quindi non ci sarà più la possibilità di emettere elementi organici. Infatti ha anticipato un po' la mia domanda, nel senso che le avrei chiesto appunto se era anche questo il motivo, in maniera ovviamente elegante, però giustamente le mi ha risposto che solo i treni, diciamo, più vecchi hanno ancora questo sistema, ma li state modificando. È così, tutti i treni nuovi ormai hanno il bagno chimico, quindi non emettono più nessun elemento fisiologico, per cui organico, per cui il futuro sarà sicuramente azzerare questi fenomeni. Però è chiaro che poi in una stazione, siccome il mondo è aperto, ci sono altri elementi che possono essere messi anche indebitamente dai nostri clienti, e quindi oltre alle pulizie, ripeto, soprattutto in quelle stazioni dove c'è una copertura, una tettoia che impedisce anche all'acqua piovana, naturalmente, una pulizia, certo, naturale, spruzziamo calceviva per igienizzare e rendere l'ambiente più confortevole. E poi devo dire, visivamente, se io guardo le stazioni dipinte di bianco con la massicciata, la rotaia di bianco, ho anche un elemento visivo che mi trasmette maggiore pulizia e maggior decoro. Esteticamente più piacevole, ha ragione. Quindi diciamo che il nostro ascoltatore, dando le sue ipotesi, non era andato lontano da nessuna... Aveva centrato gli argomenti. In pieno gli argomenti. Spero di averli messi in fila anche un po' con qualche elemento tecnico in più. Sì, infatti, tra l'altro io mi incuriosisce molto, e posso approfittare magari della sua preparazione per farle qualche altra domanda, nel senso che preparando anche questa puntata e questa nostra chiacchierata, ho visto in rete e sappia che tantissima gente si è interrogata su questa colorazione dei binari, questo bianco che è stato visto soprattutto nella centrale di Milano, quindi vi invito magari ad andare a vedere in rete, perché la cosa ha incuriosito tante persone, devo dire. E poi la cosa che volevo chiederle, e queste sono domande che vengono da me, quindi mi scuso per anche la semplicità, però volevo chiedere, in Italia abbiamo assistito a dei grossi lavori che voi avete fatto anche per l'alta velocità, in quel caso i binari sono uguali, cioè, perché i binari ci sembrano sempre eterni, sempre uguali, è una tecnologia che non cambia tanto, in realtà che differenza c'è tra quelli della rete tradizionale e quelli dell'alta velocità, oppure sono uguali? Gli stanno, no, domanda è pertinente, e devo dire, per chiudere il discorso del bianco, mi fa piacere che i nostri clienti, i nostri viaggiatori sì, osservino questo bianco e si pongono la domanda, ed è un modo, dal mio punto di vista, di far vedere, è l'unico modo di far vedere come si fa o come si può fare maggiore sicurezza. Ovviamente vivo un mondo di tecnologie, di regole, di regolamenti che sono molto stringenti e tutti legati a fare sicurezza. Per tornare alla sua domanda, è pertinente la sua domanda, quando si costruiscono linee della nostra rete, le linee vengono costruite in funzione degli standard che si vogliono ottenere con determinati materiali. Oggi da una ventina d'anni a questa parte la rotaia è diventata uno standard, sia per le linee dove la velocità non è molto elevata, sia per le linee dove la velocità è molto elevata. E in gergo tecnico, in un qualche modo, lo standard ci porta a dire che la rotaia è 60 uni, il 60 rappresenta il peso per metro lineare della rotaia, quindi Se andiamo su una linea non alta velocità o sulla linea ad alta velocità, la rotaia è sempre la stessa. La traversa, un altro elemento, o la massicciata, la sede, le opere d'arte invece dell'una o dell'altra linea si differenziano perché i carichi statici sono, e dinamici sono evidentemente sono diversi. E in funzione dei calcoli fatti vengono fuori elementi costruttivi di diversa resistenza. Oggi siamo poi inseriti in un contesto europeo, gli standard della nostra rete rispecchiano e rispondono a tutti i requisiti che abbiamo condiviso con l'intera Europa, quindi c'è un discorso di interoperabilità, vale a dire che un treno dall'Italia può andare in Francia, in Germania e viceversa, proprio perché l'infrastruttura che abbiamo fatto da un punto di vista di sede e di tecnologia è interoperabile, è la stessa, quindi ci si può andare praticamente come se fosse, come dire, un'autostrada che uno con la propria macchina esce da un paese e entra in un altro paese. Ecco, infatti, perché le stavo proprio per chiedere questo, se appunto gli standard non sono ovviamente solo nazionali ma sono europei. C'erano qualche anno fa dei problemi tra uno Stato e l'altro che ovviamente evidentemente sono stati risolti già da anni. Sì, direi dagli anni 90 in poi abbiamo iniziato a ragionare sull'interoperabilità. Oggi davvero abbiamo fatto passi da gigante ed è una realtà. Se voi vedete ci sono alcune imprese ferroviarie dall'Austria, dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Germania vengono in Italia e noi dall'Italia usciamo verso questi paesi. Qualche difficoltà, devo dire, ce l'abbiamo con i paesi collegati che sono un po' più restii ad aprire, a fare più concorrenza, mentre noi abbiamo recepito in pieno la concorrenza, la direttiva sulla concorrenza, quella europea, gli altri paesi ancora non sono allineati come noi e quindi mentre noi abbiamo aperto le porte a tutti, non tutti hanno aperto le porte a noi. Questo è un problema che stiamo cercando di risolvere con l'intera Europa. Quindi direi che siamo avanti rispetto agli altri paesi in termini di liberalizzazione, se vuole, e concorrenza di mercato. Una volta tanto, direttore, meno male, cioè, siamo orgogliosi della nostra rete, per carità, credo che lo sappia, insomma, che ha tanti affezionati. In Europa sicuramente, ma credo di non sbagliare se dico al mondo, che hanno praticamente aperto ad un operatore ferroviario sull'alta velocità diverso da un unico operatore. Noi oggi sull'alta velocità abbiamo Trenitalia, ma abbiamo anche NTV, quindi due imprese ferroviarie distinte, di società distinte, di società diverse. E siamo l'unico paese al mondo che riesce a fare una cosa del genere. L'ultima curiosità che avevo, ma in parte mi ha già risposto all'inizio, era appunto le criticità dovute alla stagionalità, nel senso che ovviamente le rotaie, i binari, tutta la rete è esposta a qualsiasi tipo di intemperie. In Italia poi andiamo dai 3000 metri in montagna fino alla Sicilia e alla Calabria, quindi in qualche modo dalle altissime temperature che ci raccontava prima anche a quelle purtroppo sotto zero, quindi devono essere binari che, va bene, rispondono a certi standard, ma allo stesso tempo riescono a stare sotto la neve e sotto il sole. E ha ragione. Per far questo la tecnica costruttiva ha studiato una regolazione della rotaia. Quando posiamo il binario, posiamo la rotaia, si regola la rotaia, cioè viene tirata rispetto ad una temperatura che è una temperatura che recepisce in buona sostanza il clima della zona in cui si va ad operare. Nel sud la regolazione va oltre i 30 gradi, 32-35 gradi, nel nord è intorno ai 30 gradi, quindi questa differenza di regolazione della rotaia ci permette di garantire la presenza dello stesso binario costruito allo stesso modo sia al nord che al sud. Quindi su questo devo dire la tecnica ci ha dato grandi risultati per poter gestire la rete con le stesse tipologie costruttive utilizzando regolazioni diverse a seconda del clima che si incontra. Bene, grazie ingegner Lebruto, io la ringrazio davvero, le auguro ovviamente un buon lavoro, noi siamo orgogliosi della nostra rete, sappia che insomma siamo attenti consumatori, ecco, attenti clienti. E noi ci aspettiamo che sempre di più ci facciate osservazioni per poter aprire il nostro mondo, farvi vedere la grandezza di questa azienda, che è un'azienda tutta italiana e davvero davvero prima in Europa in tante cose. Sulla tecnologia siamo stati i primi a far circolare un treno ad alta velocità con un messaggio telefonico e adesso la nostra tecnologia è diventato lo standard europeo. Bene, grazie. Grazie a voi, buonasera. Buon lavoro. Chiara, ma quanta roba è venuta fuori su sti binari. Hai visto, è stata veramente una chiacchierata interessante. Allora, sarei andata avanti per ore, ma purtroppo il tempo è finito. A disposizione è finito. Auguriamo agli ascoltatori un buon fine settimana, buona Pasqua, buone vacanze. Buone sorprese buon e tutto. Ci vediamo qui fra una settimana.